Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Mali con Marco Aine. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Vivere una sola vita, in una sola città, in un solo paese, in un solo universo. Vivere in un solo mondo è prigione. Sono i versi di un poeta maliano e sono perfetti per introdurre una nuova puntata di Compagni di Viaggio che oggi vi porta nell'Africa subsahariana, proprio nel Mali. Nome: Repubblica del Mali. Capitale: Bamako. Confini: il Mali confina a nord con l'Algeria, a est il Niger, a sud con il Burkina Faso e la Costa d'Avorio, a sud-ovest con la Guinea, a ovest con il Senegal e la Mauritania. Abitanti: circa 15 milioni. Clima: data la latitudine, la presenza del deserto in gran parte del suo territorio, il fatto che non ha sbocchi sul mare, il Mali ha un clima subtropicale arido. Forma di governo: Repubblica Presidenziale. Lingua: la lingua più parlata è il Bambara. In alcune zone del paese, il Soninke. È molto conosciuta la lingua francese in ragione del suo passato di colonia francese. Documenti: passaporto e visto con validità di un mese. Vaccinazioni: obbligatorio il vaccino contro la febbre gialla. Moneta: franco CFA, la moneta utilizzata da 14 paesi africani che sono stati colonie francesi. Religione: musulmani 80%, in maggioranza sunniti, animisti 18%, cristiani 1%, altri 1%, prefisso internazionale più 223. È il primo viaggio in Africa per me e, visti i racconti che si fanno su questo continente, sul legame che si instaura con esso una volta conosciuto, sono decisamente emozionata. In fondo il viaggio ci mette sempre in comunicazione con la parte più intima di noi. Parte nella testa, ma poi ha bisogno del supporto dei sensi per maturare. Esiste, si potrebbe dire, una corporeità del viaggio che oggi voglio indagare con Marco Aime, nel paese dove i sensi sono decisamente protagonisti e dove il mito di certe culture si mescola alla forza del paesaggio. Benvenuti con noi nel Mali. Va bene, perché il Mali? Io col Mali forse ho un po' un debito affettivo, perché è stato il primo paese africano che ho visitato ed è stata di lì che poi è iniziata da un lato la mia passione per l'antropologia e dall'altro la passione per l'Africa. E in Mali ci sono finito casualmente. Al 1984 avevo previsto con degli amici di fare un trekking nel Ladakh, nel nord dell'India, poi un paio di mesi prima della partenza venni operato al ginocchio per un legamento che si era danneggiato e, non potendo affrontare il trekking, cambiai meta e andai con un viaggio in Mali. Quindi le grandi scelte della vita sono poi queste, e da allora non sono mai più venuto via, ecco, praticamente dal Mali. Sono ormai 27 anni che lo frequento più o meno regolarmente. E devo dire che ho partito per il Mali perché inseguivo un immaginario, come spesso capita. Ormai quasi tutti, credo, quando viaggiamo un po' tutti dentro una sorta di immaginario preconfezionato, cioè scegliamo una meta perché in qualche modo crediamo di sapere com'è, anche se magari non è poi così. Per cui ero affascinato un po' dal mito dei Dogon, avevo letto dei libri, Timbuktu, questo nome magico, e in realtà quando sono arrivato appunto nel 1984, un po' tutto questo immaginario esotico, esotizzante, venne spazzato via dal fatto che in quel periodo il Mali stava vivendo una siccità terribile. È una situazione veramente molto dura. Animali e persone morivano a causa di questa siccità, per cui sono trovato davanti una realtà, quella del Sahel, drammatica, che ha Forse credo abbia condizionato un po' da allora tutta la mia visione sull'Africa, ecco, ben poco romantica, ma forse più legata ai problemi concreti delle persone. Però ecco, una cosa che fin dal primo viaggio, quando sapevo poco o niente del Mali, fino agli ultimi dove un pochino ho cominciato a conoscere questo paese, la cosa che un fascino che ha colpito all'inizio e che continua adesso è, da un lato direi il paesaggio e dall'altro invece l'aspetto culturale. Paesaggio e cultura, geografia e storia. Ecco cosa succede quando è l'Africa che ti viene a cercare, col respiro della sua natura e delle sue verità. Le parole di Marco mi hanno già immersa in tutta questa vita che scorre e che immaginavo mi aspettasse qui. Ecco, dal paesaggio del Sahel direi che, ecco, forse è un paradosso, perché non riuscirei mai a dire che è un bel posto, anzi viene proprio male dire che sia bello, e però ha un fascino particolare che secondo me è un po' quello dell'assenza. Spesso un po' l'Africa viene vista, viene letta, viene presentata un po' come il mondo del mistero, della giungla, no? Uno pensa un po' alla fede di Joseph Conrad, Cuore di tenebra, e ecco, questo fiume che si addentra la foresta, dentro questa foresta ci sono mondi misteriosi, tribù, animali, su cui proiettare un po' anche le nostre paure, le nostre... E quindi lascia molto spazio all'immaginazione. Lo stesso Conrad diceva: solo l'immaginazione dell'uomo fa sì che la verità trovi un'effettiva e inalienabile esistenza. Ma come prosegue Jaime, noi non siamo nell'Africa di Cuore di Tenebra. Noi siamo nel Sahel, sul fiume Niger, che non nasconde nulla. E i conti con la verità sei obbligato a farli subito, senza il filtro dell'immaginazione. Se noi paragoniamo il viaggio di Conrad, per dire, sul fiume Congo, invece a un viaggio sul fiume Niger, nel Mali, il Sahel non nasconde nulla, ti lascia tutto davanti agli occhi e sei obbligato a fare i conti con quello che vedi, che ti piaccia o meno, un po' come la partita a scacchi, no? Giochi a carte scoperte. E quindi ti obbliga a riflettere, ecco, sulla dimensione, sulle strategie di vita, le difficoltà, il clima molto aleatorio che dipende dalle piogge. Però ecco, non ti può lasciare indifferente e non ti lascia, non lascia troppo spazio alla fantasia. Quindi ti obbliga, ti insegna un po' a essere realista e poi ecco, ti insegna anche a essere umile, ecco, perché ti accorgi che la dipendenza alla vita è legata a un filo veramente sottile in quei posti, e quando vedi come vive la gente nel Sahel, ti rendi conto, è una lezione, che ti rendi conto di quanto sia ricca e importante la loro cultura. Il fatto di riuscire a sopravvivere lì, ecco, è già un merito, secondo me. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Mali con Marco Aine. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo alle porte dell'Africa nera, nel Mali per l'esattezza, in compagnia di Marco Aine. Capitato in questo paese un po' per fatalità e un po' per inseguire un immaginario preconfezionato, come l'ha chiamato lui, sulle orme della popolazione dei Dogon. Da quella prima volta non riesce più a starne lontano. Due sono gli aspetti che l'hanno catturato sin dall'inizio: Da una parte il paesaggio, che non lascia nulla all'immaginazione, ma che ti getta subito nella verità di quei luoghi. Dall'altra, la cultura. E dal punto di vista culturale, credo che il Mali sia affascinante perché è un po' un punto d'incontro, uno snodo, una terra di confine ibrido in cui si sono incontrate la cultura tradizionale dell'Africa nera con la cultura del mondo arabo-islamico, ecco, che è penetrato attorno all'anno 1000 fino all'Africa occidentale, e proprio in questa zona di confine tra Sahara e Sahel ha, credo, trovato una sua sintesi più ricca, ecco, per cui dal punto di vista anche dei costumi, delle tradizioni, c'è una fusione, ecco, c'è un Islam che è sicuramente l'Islam del profeta, ma è anche l'Islam delle popolazioni pre-islamiche, quindi come aveva detto un grande studioso maliano, Amadou Ampateba, l'Islam è come l'acqua, prende il colore delle pietre su cui scorre, no? Quindi una religione che si è adattata agli usi, costumi tradizionali, no? E quindi ecco questa fusione, questo gioco, ecco, in cui i confini si accavallano lasciando non un confine netto ma tutte delle aree sfumate, secondo me lo rende particolarmente affascinante, ecco. Confini che si accavallano, fusione di culture e tradizioni. La vera bellezza è contaminazione. Ecco, del Mali potrei dire, ecco, alcune esperienze bellissime sono, beh, intanto ecco la visita di Djenné, questa città musulmana, considerata anche città santa per l'Islam, costruite interamente con fango, l'architettura costruita in fango, con questa enorme moschea che ha un fascino, ecco, in cui uno viene quasi sospeso un po' nel tempo, ecco, questa dimensione di pedonale, questi muri di fango, anche se poi ecco, contrasta, per cui magari su un'abitazione costruita secondo una tradizione che risale a un millennio fa possiamo trovare installata una modernissima parabola con cui si ricevono tutti i canali o altre tecnologie che si diffondono, però ecco, ha un fascino particolare ancora, dove si vedono queste scuole islamiche, i bambini seduti all'aperto che scrivono su tavolette di legno, e questo sembra quasi un po' un salto indietro per certi versi nel passato. Abbiamo già fatto la conoscenza del fiume Niger, il fiume che ti svela subito la verità di questo posto. Come dicono i Tuareg del Mali, saremo ricordati per il colore delle nostre tracce. Certamente si riferiscono al blu cobalto di queste acque, al verde della vegetazione che lo lambisce e infine all'ocra del deserto e al rosso delle case modellate dal fango. Attraversare questi colori deve essere un'esperienza unica. C'è poi, ecco, la discesa o la risalita, adesso dipende in che senso le facciamo, comunque il viaggio, credo, lungo il fiume Niger sia un'esperienza davvero unica, perché intanto perché se la si fa da Mopti verso Timbuktu, sono 3 giorni di navigazione, beh, certo ci si rende conto delle dimensioni del fiume, in alcuni punti non si vedono le due sponde viaggiando in mezzo, e si vede anche il mutare del paesaggio, che all'inizio è un po' verdeggiante, dopodiché via via diventa sempre più semiarido, poi arido, fino ad arrivare dopo appunto 3 giorni a Timbuktu, dove le dune, la sabbia del Sahara arriva quasi sulle sponde, quindi si vede come penetra il deserto. Rocky. Siamo nella mitica Timbuktu. E poi Timbuktu, ecco, Timbuktu è... Beh, il nome intanto evoca l'altrove per eccellenza, ecco, molta gente non sa dov'è Timbuktu, ma sa che è lontana, no? E Timbuktu è il sinonimo proprio della lontananza. Ci ricordiamo Paperino che scappa a Timbuktu, il maggiordomo di Aristogatti spedito a Timbuktu. Quindi quando si dice andare a Timbuktu non si sa dove, ma si sa che è lontano. E Timbuktu è una città destinata a stupire, a spiazzare, a deludere, credo, secondo me, un po' perché, ecco, credo che chi va a fare un viaggio in Mali non sia un viaggiatore sprovveduto, ecco, una scelta così anche abbastanza particolare, richiede un minimo di adattamento, niente di tragico, ma non proprio il viaggio, ecco, comodissimo. E in genere, ecco, tutti credo siamo un po' alimentati del mito di Timbuktu, per cui Timbuktu, città ricca, città di cui si ricorda, i cronisti arabi ricordano il pellegrinaggio del sultano di Timbuktu nel 1324-25, in cui parte con una quantità di oro incredibile. Quando arriva al Cairo, sulla strada per la Mecca, fa talmente tanti regali, acquisti in polvere d'oro da creare un'inflazione del 12%. Quindi questo mito di Timbuktu, città dell'oro, ma anche Timbuktu, città che aveva le università già nel Medioevo. Una volta si diceva vado a Timbuktu per indicare appunto un paese molto lontano e misterioso, una specie di Eldorado. Marco Aime mi ci sta portando, anche se mi mette in guardia. Non dobbiamo giudicarne la bellezza secondo i nostri parametri. La maggior parte dei turisti che va a Timbuktu sta poco tempo, quando arriva fa un giro e la reazione è quasi sempre: tutto qua, non c'è niente da vedere. E mi sono un po' interrogato anche su questo, avendo poi avuto l'occasione di viverci parecchi mesi a Timbuktu. E credo che sia il fatto che noi appunto, se pensiamo a una città medievale ricca e colta, la identifichiamo con le città medievali ricche e colte della nostra storia: Firenze, Siena, Venezia, Genova. E in genere, con che chiave noi leggiamo un passato ricco di una città? Col monumento. Noi la storia, la ricchezza di una città, la storia la leggiamo attraverso i suoi monumenti. A Timbuktu il monumento non c'è, perché è una città fatta di sabbia, quindi i monumenti crollano oppure si tengono su, ma anche la moschea è del 1300, ma tutti gli anni viene rifatto l'intonaco. Allora uno potrebbe chiedersi: è del 1300 o è dell'anno scorso? E quindi saltano le chiavi di lettura e delude al primo impatto, perché la gente si aspetterebbe di vedere qualcosa di spettacolare, invece no, vede una città che di bello non ha granché. Car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire pour aller faire la guerre. Ils ne connaissent pas la cause pourquoi ils partent mourir. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Mali con Marco Aime. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Eccoci arrivati a Timbuktu. Non è un modo di dire. Ci siamo arrivati veramente con le parole di Marco Aime, il mio accompagnatore in questa parte di Africa così insolita. Un'Africa che non assomiglia all'Africa, come dice lui. Per capire la storia di Timbuktu invece bisogna sedersi a un angolo di strada, per esempio guardare i volti e i vestiti della gente, si capisce quale varietà etnica, storica, culturale, abbia questa città che è stato un crogiolo di città, come mi ha detto un anziano, che Timbuktu è il Brasile del Mali, perché si sono mischiati tutti. Oppure vedere la quantità di manoscritti che risalgono dal XII secolo, XIII, fino a tempi più recenti, e che tutte le famiglie possiedono, perché Timbuktu è una città fatta di una borghesia letterata, colta. Io dico sempre scherzando, somigliano un po' ai fiorentini, meglio di loro non c'è nessuno, e che ancora oggi, che Timbuktu è isolata in mezzo al deserto, quando uno va nella capitale gli dicono: ah, va in campagna. Ecco, quindi questo è l'atteggiamento che hanno ancora oggi i Tombuxien, che sono appunto un'aristocrazia commerciale molto colta. E Timbuktu spiazza perché ci si aspetta dall'Africa, allora, il continente delle etnie, e qui invece tutto è talmente mescolato. Ci si aspetta dall'Africa il villaggio, e qui una città costruita con un piano urbanistico, delle case a due piani. Ci si aspetta la tradizione orale, e qui tutti sanno scrivere e hanno una grande cultura letteraria. Quindi spiazza il turista, il viaggiatore, perché è un'Africa che non assomiglia all'Africa. Ecco, Timbuktu va capita, avere pazienza, fermarsi qualche giorno, permette di entrare un po' nel suo tessuto, e dopo un po' diventa difficile andarne via, ecco, quando finisce Timbuktu. Ma dopo essere arrivati a Timbuktu, dopo aver guardato all'angolo della strada la sua grande varietà etnica e culturale, dove possiamo dirigerci ora? Beh, forse proprio dove si era diretto Aime la prima volta che ha fatto visita al Mali, la regione dei Dogon. E poi direi un altro delle mete tipiche del Mali è, diciamo, quello, la regione dei Dogon. Qui Dogon, questa popolazione che vive ai piedi di questa, della falaise di Bandiagara, è una popolazione che è diventata celebre grazie all'antropologia, ecco, in particolare a Marcel Griol, questo etnologo francese che dal 31 al 56 ha lavorato sui Dogon, e che ha scritto un libro nel 48 che si chiamava Dio d'acqua, che è diventato celebre ben al di là dei confini accademici, proprio perché raccontava di questa affascinante mitologia dei Dogon, questa cosmogonia, questa loro lettura del mondo, che affascinava per la ricchezza, per la raffinatezza. E così i Dogon sono diventati una meta turistica per eccellenza, perché sono i veri animisti, l'ultima culla dell'animismo. È curioso perché nell'89 sono stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, inventando una categoria nuova, perché quella di paesaggio culturale, cioè, perché l'UNESCO in genere è abituato a tutelare o ambienti o monumenti, qui c'è un ambiente ma anche le persone. I Dogon in fondo hanno fatto proprie le letture antropologiche, hanno letto ciò che si è scritto su di loro, quindi sanno cosa i turisti si aspettano, e per certi versi mettono coscientemente in scena la loro cultura, non inventandola certamente, ma semplicemente riadattandola un po'. Però ecco, è curioso come poi, devo dire, a me i Dogon poi sono diventati molto più simpatici quando ho capito questo meccanismo, perché questo adattare e rispondere a questi nuovi eventi come il turismo, beh, dimostra che sono tutt'altro che società legate alla tradizione o fisse e incapaci di mutare, anzi, al contrario, hanno reagito benissimo con una, direi, una logica quanto mai moderna. Oggi si direbbe forse in termini, non so, di marketing custom oriented, cioè il turista vuole l'animista e io faccio l'animista, e faccio in fondo quello che lui si aspetta, lui è contento e il turista viene, e in fondo dire, poi è quello che fanno non solo i Dogon ma anche molte altre, non solo popolazioni etniche, ma. Quindi ecco, direi che la dimostrazione che la cultura Dogon è quanto mai viva e sa benissimo rispondere a quanto capita nella loro terra, ecco, e tutto attorno. Marco Aime vede in questo rispondere dei Dogon a ciò che il turista si aspetta un segno assolutamente positivo, perché noi a volte abbiamo un po' la tendenza a leggere queste popolazioni in una chiave statica e forse andiamo a vederle perché speriamo nel primitivo. Questo comportamento non significa però che abbiano abdicato alla loro tradizione. Ma credo che sia un esempio molto divertente, che può spiegare come la tradizione in realtà continua solo se si rinnova. Proprio Marcel Griol, che nel 1938 aveva scritto un libro bellissimo sulle maschere Dogon, lui è un ottimo disegnatore, le aveva disegnate, di ognuna spiegava il significato, le aveva classificate, con 68 maschere, maschere satiriche, maschere sacre, e tutte spiegavano i movimenti, la funzione. Poi racconta in un suo articolo di ritornare in un villaggio e a un certo punto vedere una maschera che lui non aveva mai visto, e quindi immagino anche come si sarà sentito. E nella sua descrizione dice: si vede che è una maschera satirica perché tutti ridono, no? E questa maschera, dice, ha un ramo in una mano, un bastone e una foglia nell'altra. Insomma, dopo un po' capisce che era la maschera dell'etnologo. Ramo e la foglia erano la penna e il taccuino. Cosa avevano fatto i Dogon? Avevano visto un personaggio buffo che andava in giro a fare domande e a scrivere su un quaderno le risposte, e l'avevano fatto diventare un personaggio delle loro danze. L'etnologo come maschera satirica. Questa sì che è la dimostrazione di quanto la cultura Dogon sia viva, ma soprattutto attenta. Oggi troviamo la maschera vigile, poliziotto col fischietto che fa finta di picchiarvi se non gli date una moneta, e curioso, si trova non solo tra i Dogon, anche in altre popolazioni, una maschera con sopra il disegno, scolpito, disegnato o che raffigura in qualche modo il dottore, e questa maschera viene utilizzata nelle danze per sensibilizzare la gente a far vaccinare i figli. La tradizione è il linguaggio delle maschere, e le maschere raffigurano il mondo che c'è attorno e perciò mutano con esso. Per cui la maschera oggi raffigura il dottore, il poliziotto e anche l'etnologo, che è entrato a far parte del paesaggio dei Dogon. I will hang a case in the recipient me day. I will hang a case in the recipient me day. En canya moruma farafina muribadio. Compagni di viaggio. Nel Mali con Marco Aime. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo nel Mali in mezzo alle maschere dei Dogon. Abbiamo visitato Timbuktu scendendo per il fiume Niger insieme a Marco Aime. Dalle esperienze fatte fin qui, viene da pensare che un viaggio in Mali non sia proprio una cosa banale. Adesso partiamo alla volta di Bamako, la capitale. Direi che è un paese che richiede qualche tipo di adattamento magari riesco sul dormire, sul mangiare, ma non particolari difficoltà. La lingua è il francese, quindi col francese si va dappertutto e appunto lungo le strade principali e nelle città principali si trovano anche dei piccoli alberghi, locande così, abbastanza spartane ma accoglienti, dove si può dormire e mangiare senza alcun problema. Bamako, la capitale, è una città piuttosto grande, qui ecco, ci sono tutte le varietà di offerte, dagli hotel di lusso con piscina a locande molto più economiche, e direi che ecco, se ci si passa, una cosa molto interessante da visitare a Bamako è il Museo Nazionale del Mali, dove sono conservati pezzi d'arte africana molto belli, alcuni reperti archeologici e anche un'esposizione di tipologie di tessuti tradizionali piuttosto interessanti. L'arte africana mi piace molto. Cosa mi posso portare a casa oltre alle fotografie di quello che ho visto? Ma diciamo che allora tra i Dogon l'arte della scultura è veramente sviluppata e molto raffinata. I Dogon sono dei bravi scultori, quindi maschere o statuette di legno sono degli oggetti molto belli, hanno anche un'estetica secondo me molto molto molto interessante, ecco. Invece per esempio nella zona di Timbuktu, dove c'è anche una forte presenza Tuareg, ecco, qui ci sono degli ottimi gioielli, oggetti di bigiotteria in argento in stile tradizionale Tuareg, che sono ecco, tipici del posto, o anche c'è abbastanza sviluppato l'artigianato del cuoio, che è un artigianato importato dal Marocco, per cui ciabatte decorate o anche sacche in pelle, così sono piuttosto pregiate. L'artigianato Tuareg è invece prevalente per quanto riguarda l'aspetto ecco, della bigiotteria in argento, oppure anche quello delle scatole di legno rivestite in pelle. Direi che questi sono un po' ecco, i due oggetti, i due tipologie di souvenir più caratteristiche. Ancora un terzo, vogliamo aggiungere, specialità proprio di Jenné, è il cosiddetto Bogolan, che è un tessuto di cotone grezzo, maglia grossa, che viene poi colorato con dei colori ocra molto, molto intenso e con dei disegni in nero e bianco sopra, molto belli. Bogolan vuol dire in lingua bambara argilla, viene chiamato così perché questi tessuti hanno un po' il colore dell'argilla, credo che i colori di base vengano dall'ocra appunto, e sembra un po' la terra grezza, ecco, sono dei tessuti molto belli che possono essere utilizzati sia come per coprire un letto, un divano così, o anche come arazzi, essere appesi alle pareti. Eccoci di ritorno a Genova, nello studio di Marco Aime. Spengo il mio registratore e lo ringrazio del bel viaggio. Nel chiedergli qualche indicazione sulla musica che potrei mettere nella puntata, parte un nuovo affascinante racconto. Così riaccendo e registro di nuovo. Peccato che al ritorno a casa mi accorga di non aver pigiato il tasto giusto e delle sue parole non è rimasta traccia. Poco male. Le suggestioni su questa terra magica le ho immagazzinate. Per la musica mi arrangerò. Ma il Mali non ha ancora finito di stupirmi. Qualche settimana dopo l'intervista, incontro per caso Marco sul treno per Milano. È il destino, immagino. Così gli racconto dell'accaduto. Se hai 10 minuti ti racconto la parte che hai perso, mi dice lui. Arriviamo così in stazione centrale e cerchiamo un luogo più o meno riparato. I rumori di sottofondo tradiscono una nuova location rispetto a prima. Ma anche questo è il viaggio. Il Mali è anche un paese ricchissimo di tradizioni musicali, anzi potremmo dire che forse la musica tradizionale del Mali è un po' alla radice del blues, blues americano, il blues nero americano. È stato mostrato molto bene in un film di Martin Scorsese che si intitola Dal Mississippi al Mali, in cui un giovane bluesman nero afroamericano ripercorre la storia del blues fino ad arrivare a incontrare Ali Farka Touré, che è stato uno dei massimi esponenti di questa musica maliana. Ali Farka Touré, che è originario di Niafunké, un villaggio a 80 km da Timbuktu, uno dei musicisti più celebri e reso celebre anche da un disco realizzato insieme a Ray Kuder che si intitola Talking Timbuktu. Uno degli aneddoti che mi aveva raccontato nel suo studio a Genova era proprio su Ali Farka Touré, che Marco ha avuto la fortuna di conoscere. Quando gli ha chiesto come fosse Ray Kuder, uno dei più grandi chitarristi del mondo, la risposta del musicista maliano è stata spiazzante, anche se prevedibile. Beh, è uno che impara in fretta. Se c'è una cosa per cui gli africani non si sentono minimamente inferiori a nessuno, è la musica, come si ribadisce anche nel film di Scorsese. Il blues ti riporta alle origini più remote. Come dice un vecchio proverbio africano, le radici di un albero non fanno ombre. Ecco quanto il blues ti entra nell'anima. Quando ascolti la musica capisci che quella è davvero l'unica cosa che nessuno può togliere alla gente di colore. Well, it's on, John. Oh, no, John. He's on, oh, no. Tra i grandi musicisti maliani possiamo ricordare anche Toumani Diabaté, che è forse il più grande suonatore di kora, che è una specie di arpa tradizionale dell'area del Sahel, la cui cassa armonica è formata da una grossa zucca, e poi anche Salif Keita e Boubacar Traoré, detto Karkar, che sono due cantautori che utilizzano sia le lingue etniche locali sia anche il francese per esprimere i loro testi. Ecco, questa la musica maliana di caratteristico ha quello, come un po' per tutto ciò che avviene sul piano culturale in Mali, di fondere da un lato la melopea della musica araba, arrivata appunto all'anno 1000 con le prime i primi mercanti arabi, con il ritmo della tradizione nera africana. Ecco, questo mix di sonorità d'origine ha una musica quanto mai particolare, basata su una scala pentatonica che, arrivata poi nelle Americhe con gli schiavi, è sicuramente stata quella che forse più di tutti ha contribuito a dare origine a quello che è il blues moderno. Adesso il viaggio è proprio finito. Un proverbio Tuareg è quello che ci vuole per chiudere con il Mali e darci appuntamento alla prossima meta. Mettiti in cammino anche se l'ora non ti piace. Quando arriverai, l'ora ti sarà comunque gradita. Marco Aime è in libreria con Timbuktu e Diario Dogon, editi da Bollati Boringhieri. Nebe nani ne faunyana, mbali manyu manyu yo. Nebe nani ne faunyana, mbali manyu manyu yo. Nebe nani ne faunyana, mbali manyu manyu yo. Nebe nani ne faunyana. Mana mi forti mi senu ye, ndi anya bofu.